Voci di piccola impresa. Idee di futuro. Di Anna Marino. Benvenuti, questa puntata è dedicata alle idee di futuro sostenibile delle piccole e medie imprese. Ci concentriamo oggi sulle start-up e PMI nate e sviluppate prima o dopo l'emergenza sanitaria, ma che sono la ripartenza per una nuova economia attenta al territorio, alla salute, alle risorse alimentari e incubatori di start-up che guardano e aiutano i giovani a realizzare le loro idee imprenditoriali e ad autoimpiegarsi, ma valorizzano anche il nostro patrimonio culturale e ambientale per non sprecare le forze delle nuove generazioni e la tradizione italiana. E la loro guida è tutta al femminile. La prima storia è quella di Openly, azienda dedicata alla data science, nata nel 2014, che ha come obiettivo di raccogliere i numeri ed elaborarli per aiutare aziende a leggere i dati, tradurre il loro linguaggio e interpretare la storia che sanno raccontare. Tecnologia e storytelling per progetti in diversi settori, banche, assicurazioni, fashion, alimentare e risorse umane. Applicando l'intelligenza artificiale, Openly ha aiutato anche un'azienda del settore a ridurre i prodotti freschi invenduti per 170.000 euro in un anno e da poco ha sviluppato anche un progetto per usare i big data e l'intelligenza artificiale per limitare il contagio da Covid e pianificare la riapertura delle zone. Openly ha sede principale a Bologna, ma è presente anche a Torino, Milano, Reggio Emilia e nel Modenese, a Vignola. La guida, fin dall'inizio, in tutti i progetti di sostenibilità che ottimizzano gli investimenti ed eliminano gli sprechi, Barbara Vecchi, founder e CEO di Openly. L'idea è nata nel 2011 ad un evento di tecnologia internazionale. Io lì finalmente ho potuto fondere la mia grande passione per le neuroscienze e il mondo delle tecnologie che avevo abitato fino a quel momento. Ho dovuto comunque aspettare, perché comunque nel 2012 ho avuto un importante problema di salute, però questo importante problema di salute mi ha dato veramente il coraggio di azzardare e quindi ho creato Openly nel 2014. Fin da subito il core business dell'azienda è stata la data science. Chi vi ha aiutato però a fare questo switch, questo salto? Sono il socio fondatore e quindi all'inizio ho utilizzato solo soldi miei. Nel 2014 è stato comunque prematuro aprire un'azienda di analytics e di intelligenza artificiale, perché comunque gli investitori italiani non conoscevano ancora questo ambito. Abbiamo trascorso molto tempo a cercare di spiegare che cos'erano gli algoritmi e come potevano essere applicati al mondo del business. Chi ci ha aiutato veramente è stato comunque ancora un nostro cliente, perché conoscendo il settore, venendo dal risk del mondo finanziario, ci ha commissionato un grosso progetto. Qual è il vostro modello di business e perché è così importante anche per il futuro delle aziende? Ma il nostro modello di business è un B2B e con una serie anche di partner tecnologici che ci aiutano nel vendere, perché comunque vendere data science e analytics, algoritmi di vario genere e intelligenza artificiale è ancora molto molto difficile. Noi abbiamo sempre avuto uno slogan che era Data Science for Everyone, perché noi abbiamo sempre pensato comunque a progetti che potessero essere estremamente utili anche per le PMI italiane. È uno strumento indispensabile per competere e i prezzi sono del tutto accessibili, perché oggi è comunque possibile usare cloud, piattaforme e fare dei piccoli progetti che danno immediatamente il senso dell'efficacia di queste analisi con dei costi veramente contenuti. Mi fa un esempio, insomma, di un progetto che è riuscito ad accelerare, come dire, anche un business di una piccola media impresa. Questo riguarda ad esempio il magazzino, nel senso che ad esempio noi abbiamo trovato da un nostro cliente, praticamente avevano 1000 pezzi di scorta, sia per il prodotto che vendeva 1000 pezzi a settimana che per quello che ne vendeva 10 a settimana. In questo caso le analisi, tenendo conto di quanto tempo era necessario per produrlo, per farlo arrivare, perché era prodotto all'estero, eccetera, i trasporti, siamo riusciti a ottimizzare per ogni singolo prodotto la scorta, perché altrimenti c'era una mancata vendita oppure una giacenza. Quindi i volumi che siamo riusciti a muovere sono stati veramente molto significativi per questa piccola azienda. La seconda storia è quella della società IC Computing, opera nel settore health tech attraverso le tecnologie IoT e l'intelligenza artificiale per monitorare la salute e lo stato di benessere dei pazienti. È nata come spin-off accademico dell'Università di Torino e dell'INFN. IC festeggia i suoi primi 10 anni e in questa occasione sta entrando anche nel mondo della prevenzione e non solo della cura, con soluzioni a portata di tutte le persone che vorrebbero un'assistenza intelligente che veglia sulla loro salute in modo continuo. Il nuovo progetto in prototipazione si chiama I Do Care e ci racconta come guida questi progetti sostenibili Faiza Buraleb. È nata verso 2009, dopo praticamente 13 anni di ricerca presso la Facoltà di Fisica, Istituto Nazionale Fisica e Nucleare. Lavoravo in campo di fisica medica, già coinvolta nella parte di ricerca su software nel campo di cura dei tumori, con terapie e modi di irraggiare i tumori molto selettivo, molto ottimizzato. È lì che è nata l'idea. E quindi lì hai deciso, insomma, di fondare in una startup comunque italiana. Tu non sei italiana, ma comunque ormai siamo a livello internazionale sul digitale. Questa però è una startup tutta fondata in Italia. Sì, ero già 13 anni in Italia perché ho fatto il mio dottorato di ricerca in Italia, ormai sono italiana, sono originalmente del Marocco e c'era una collaborazione tra le due università, grazie a quello infatti tutto cominciato. In che cosa consiste questa idea? L'idea consiste nel creare dei software che sono praticamente un laboratorio virtuale per design e realizzazione e ottimizzazione di centri innovativi nella radioterapia con quello che si chiama la protonterapia, una terapia molto selettiva. In che cosa aiuta i pazienti questa tua startup? La startup, che si chiama IC, aiuta praticamente a ottimizzare il trattamento e prevedere il trattamento prima di proprio trattare il paziente, cioè fare simulazioni predittive per poter poi trattare al meglio il paziente, risparmiargli al massimo qualsiasi danno. Con chi stai lavorando e chi vi ha aiutato a implementare questa startup? Nata con il sostegno praticamente di un incubatore dell'Università di Torino. Da fisica a andare in campo imprenditoriale ci voleva. Il team è un team molto misto, cioè ingegneri, grazie anche a collaborazioni ai miei clienti stessi, perché sono centri in cui dal medico, il tecnico, al biologo, sono molto interdisciplinari, per cui grazie a quello uno può perfezionare il software che può diventare un ottimo tool per trattare al meglio i pazienti. E il vostro modello di business qual è? Il nostro modello di business è quello di realizzare prodotti ad hoc che permette la terapia e ottimizzare ogni singolo pezzo per essere proprio mirato al paziente singolo e più realistico del reale. Non c'è nessun dettaglio approssimato. La terza storia è quella di Goodwill, progetto nato a Cosenza che dal 2011 si occupa di favorire la nascita di una nuova imprenditorialità attraverso l'impegno di giovani under 30 verso la valorizzazione di beni pubblici abbandonati e la loro restituzione alla comunità. Si occupa di formazione sull'imprenditorialità con un focus sul riutilizzo di beni pubblici e privati abbandonati. Negli ultimi anni ha formato più di 1000 giovani calabresi e favorito la nascita di 5 imprese sociali e culturali che hanno valorizzato altrettanti beni comuni sparsi in tutta la regione. In stretto collegamento con Talent Garden Cosenza all'interno dell'Università della Calabria, alla guida di questo progetto e di Goodwill per una promozione sociale tutta al femminile, c'è Lucia Moretti. L'idea è quella di osservare due sprechi che avvenivano nella nostra regione, ma come nel resto delle altre regioni. Da una parte avevamo beni pubblici abbandonati e dall'altra intraprendenza dei giovani sia manifesta che latitante. Allora l'idea era quella che abbiamo avuto con le mie socie di Goodwill, di matchare questi due sprechi e chiedere alle amministrazioni pubbliche di mettere a disposizione dei giovani questi beni e dall'altra chiedere ai giovani di mettersi a pensare ad un'idea che potesse valorizzare e restituire questi beni abbandonati alla comunità. Qual è l'opportunità che avete dato ai giovani? La prima è riscoprire nei giovani calabresi una voglia di fare e non di aspettare. L'idea era di prendere questi beni per dire ai ragazzi: no, tocca a te. Non aspettare che qualcuno pensi a te. Quello che è accaduto in questi anni è che abbiamo visto dei ragazzi prendere l'ex tonnara di Pizzo e farne un co-living, un co-work, coworking. Abbiamo visto Cosenza prendere dei ragazzi che hanno costruito Otacube, hanno preso la città dei ragazzi che era quasi del tutto abbandonata e ne hanno fatto il primo Fab Lab dedicato ai cosplayer. A Rosarno i ragazzi hanno preso una mediateca e ne hanno fatto un cinema, laddove il cinema è innovazione, perché i ragazzi di Rosarno non sono mai stati al cinema. Qual è l'opportunità concreta? Il sito è www.goodwillteam.it. Fondamentalmente siamo noi che andiamo incontro alle scuole, ma chi vuole venirci a trovare ci trova all'interno di Talent Garden Cosenza. Ecco, loro devono avere un'idea, voi fornite fondi, strumenti, planning, aiuto a fare un business plan? Noi normalmente cerchiamo prima i fondi, ci hanno aiutato in questi anni Fondazione Vodafone Italia, Fondazione Con il Sud. In Calabria si fa impresa a 35 anni, cioè quando le provate tutte. Invece noi vorremmo sviluppare questo spirito a 18-19 anni, quando hai tempo di sperimentare le tue attitudini. I fondi sono relativi, perché ci sono idee facilmente, diciamo, finanziabili con pochissimo, che tra l'altro potrebbero partire con il proprio sacrificio. Ci sono idee che ovviamente hanno bisogno di più fondi, soprattutto quando parliamo di riutilizzo di spazi pubblici. Spesso gli spazi che andiamo ad aprire sono distrutti, sono deteriorati e quindi hanno bisogno di ristrutturazione. Ed è assolutamente auspicabile che ogni comune si prenda l'onere e l'onore di occuparsi di queste cose, cioè dei due sprechi, i beni che abbiamo costruito con i fondi pubblici e che oggi spesso sono chiusi, e i giovani che hanno bisogno di voce, di spazio, di credibilità e di futuro.